看那面子了，这是个面子。 Dammi il B. Ah, possiamo partire, grazie. Se non me lo dici io non posso partire. È una sorpresa. Non può partire perché se ti fai valigie. Siccome è quasi Natale, no? Ho prenotato una vacanza con, diciamo, una crociera, diciamo. Con quale cosa parti? Sì, Costa Minchia. La mia crociera si chiama Costa Minchia. Costa. Saluto, è bella crociera. Ma scusate. La sua compagnia sociale. Voglio se per piacere non ci ti parlare. Questo culo con chi è? Questo culo non c'è. No, questo culo ci ha pensato mondo, era messo a 90, ha detto parate che è sceso 4-5 su postine. Va bene, allora siamo arrivati al finale di questa puntata 1.12. Noi è anche il ci toglie il punto 112, la mitica Abbart, Ninja. Vabbè. E io con Petro, non te ne pegli, tu sei magro, tanto no, su. Ma ancora. No, ma come fa Digio? No, visto come tratta di roba, come sa la piglia? Ha giambacciato. Ha giambacciato. Ora ci ha 112. A 112. Io non so, la voglia è 112. Soldi ce ne so. Stavo. Piglia la pilla, capito? Petro, c'è una cambiale per te. C'è una cambiale. Va bene, allora domenica. Noi ricordiamo. Mi sa che cambiamo l'atleta Manuela. Ah, siccome abbiamo fatto tipo un quarto d'ora di introduzione, cerchiamo di fare la spicciola perché sennò eliminano. Allora io voglio salutare. Mi fai fare dei saluti? Sì, prego. Grazie. Io voglio salutare Radio Spillo. Radio Spillo che da. Sì, no. Caseificio Roberti. Caseificio Roberti. Radio Spillo che adesso è inglomerato alla nostra radio. Ancora siamo work in progress. Che è un work siamo in progress? No, siamo già partiti forse. È un work in progress. Siamo già partiti. Stiamo progredendo. Io vado in questa crociera. Ah. Sì, Però costa tanto. Tanto costa. Siccome. Siccome domenica è Natale, noi vi auguriamo delle buone feste, un buon Natale. Ci ritroveremo con la prima puntata nel 2012. Sperando di non essere io, tu e zio Michele Misseri, perché ormai è tutti i parte. Che... E sperando che torni anche la buona nemica Carla, ricogliati. Ma io l'hai detto che quando si è fidanzato un giovane nera abbiamo capito tutte le maleschie, ma quali maleschie, ma mi ci vuole dite Carletto uno che ha fatto casa. Un bellino è troppo, te ne è beccato uno con sapia che vuol dire fatta casa, non sapia manco chi era tutta casa, manca a Giorgio sapia. Ma che cazzo di sa c'ha 2 anni cacciato? Va bene. Noi... Un saluto da Emilio. Prego. Un saluto da Francesco. Per Licori. Per Licori un saluto a tutti. Tu? Da Endre, sì. Lo diciamo, un saluto da Laura, un saluto da Pietro, da tutti da quanti. Staff. Da Margheritoni, da Amici che Maneggio. Anche stasera ci è mancato. Massimo Maneggio che cercheremo di non vedere per un bel po'. Mi raccomando, mangiate assai a sapere. No, mangiate assai, pasta e mordico, quel che si usa nelle vostre zone. A volontà. Vi rinnoviamo. Un vaso. Dai, che sei un mix facete pensare che ancora me lo la capo. Anche io sono sicuro a dormire. Va bene. Posso? Ecco, come che loro parlavano noi a cambra sul microfono, dice, ma che mi fanno? Ringraziamo tutti voi per averci ascoltato anche questo anno. Abbiamo avuto degli ascolti record, dei risultati fantastici. Ricordate di festeggiare con qualche buona caciotta del caseificio Roberti. Che potete oppure trovare da tutte le parti. Oppure passate a prendere dei detersivi al mille bollatura. Ecco. In alternativa per tenersi leggeri, io devo farci una pizza a 2 Maruzzo o Borgandico e siamo a posto. Dopodiché niente. Ma caso non preoccupate, ci vediamo le zia. È ovvio. È un'altra cosa, va bene, Ma a Natale sono tutti più buoni, penso che ci sopporteranno per questa chiusura, diciamo. Sì, vabbè, buon Natale a tutti, ciao. Buone feste. Pure a Bifano, la tigna a fianco. Un saluto da Web Radio Luzio, ci ritroveremo nel 2012 con un aprite con la persiana.